Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ottobre, notte delle streghe, durante la quale i vivi possono comunicare con gli spiriti e i morti ritornano sulla terra per attirare gli uomini in mondi incantati dove resteranno intrappolati per sempre. A me dà fastidio Halloween, mi dà fastidio queste zucche in testa, questa cosa non c'ha nessun rapporto con la nostra tradizione. Noi abbiamo le maschere carnascialesche che sono molto divertenti. Bisognerebbe, ok, non essere così puristi e va bene Halloween, ma allo stesso tempo anche preservare il carnevale. Cioè io ho avuto per la prima volta, mi ricordo, la possibilità di provare a vedere l'effetto che faceva all'esterno il mio vestirmi da donna grazie al carnevale. E poi il carnevale è un'istituzione culturale italiana, pensa a Venezia. Guarda, ha senso di, per quelli che lo fanno, se ci credono a Halloween vogliono fare queste cose, benissimo. Gli americani è una loro festa, qui si adegua. È uno scimmiottare, ma è bello un po' scimmiottare. Strano, io pensavo che i morti già girassero per le strade da un sacco di tempo. Ne vedo un mucchio ogni giorno. Vedo morti che camminano ovunque, li vedo in televisione, li leggo sui giornali, li vedo davanti ai miei occhi nella metropolitana. Strano che soltanto stanotte i morti cominciano a passeggiare per le strade. A me mette tantissima tristezza da un certo punto di vista. Una grande curiosità il capire come mai questa giornata in tutto un anno scellerato, in cui ricorre tutto e si celebra tutto, in cui ogni giorno c'è un'occasione per ricordare qualcosa, sia l'unico giorno, l'unico pomeriggio, l'unica notte in cui si alzano e si levano tutti gli scudi. Avete sentito Pippo Baudo? Le nostre maschere carnascialesche. Ma pensate se io potessi mai dire a un bambino vestiti da Pulcinella, da Brighella, da Ballanzone, da Colombina, ma mi sputa in faccia, mi dà una catenata sui denti, ma avrebbe del tutto ragione. E anche Vladimir Luxura, che dovrebbe rappresentare insomma il massimo dell'apertura possibile, dal suo punto di vista dice: no, ma bello il carnevale, così mi posso vestire da donna, perché scusa, Halloween, chi te lo impedisce? Ci sono un'infinità di personaggi femminili che uno può senz'altro impersonificare senza nessun problema. Evidentemente c'è qualcosa che inquieta, c'è qualcosa che dà fastidio. Sono tutti concordi nel dire, perlomeno coloro che non conoscono la leggerezza dell'agire, nel tollerare, nel guardarsi intorno e sorridere, che questa festa dia fastidio. I principali luoghi comuni sono che sia una festa importata, viene dagli americani. Oddio, tutto quello che ho addosso io viene dagli americani, dalla camicia con i bottoncini, dall'orologio che ho al polso, tutta la tecnologia che mi circonda è giapponese. Cosa c'è più che è nato e collegato alla mia stirpe, delle cose che faccio, che penso, che immagino, delle quali gioisco, delle quali mi rammarico? Forse proprio la zucca venga in mente che sia qualcosa che leda così profondamente la nostra compattezza. E poi naturalmente ci sono tutte le polemiche, e queste però le rispetto perché sono fatte in nome di una sorta di conservazione del proprio territorio. Le solite polemiche di ordine religioso. Adesso ho davanti una videata del secolo XIX, c'è una sfilza di preti che oggi hanno da loro da dire su questa festa che fa male ai ragazzi, che è satanica, che induce a cattivi pensieri. Il vero problema oggi è Reggio Emilia, dove il centro turistico giovanile, che è un centro di ispirazione cattolica, aveva organizzato una bella festicciola, però pare sia stata una dichiarazione del vescovo di Reggio Emilia, che suona tanto come una velata forma di scomunica, e tutti stanno lì con le mannaie in mano, con i denti da vampiro, con i vestiti da zombie, con le zucche in mano, dice: che facciamo? Facciamo la festa e ci divertiamo e ce ne sbattiamo le palle, o diamo retta al vescovo e andiamo tutti in fila a commemorare i santi? Ma commemorare i santi non significa lo stesso entrare in un grande fantastico Halloween, ma l'avete viste? Le iconografie popolari dei santi, uno ha una sega in mano, un altro sta sulla graticola, un altro trafitto da frecce, un'altra è infilzata, un'altra c'ha un piattino con gli occhi in mano e un'altra c'ha le tette tagliate in mano, ma più splatter delle rappresentazioni dei nostri santi non esiste nulla. 800 24 0024, voi come la pensate? Una festa importata, estranea alla nostra cultura sia spazialmente che temporalmente. Così definisce Halloween l'arcivescovo di Torino Nosiglia, che nella messa di ieri pomeriggio ha definito la festività di origini statunitensi puro consumismo. La prossima festa dei santi è la commemorazione dei fedeli defunti, tanto care alla tradizione anche familiare del popolo cristiano, da anni sono contaminate da Halloween. Altra cosa sulla quale vorrei discutere, che ci sia un così profondo, sentito e sincero senso di desiderio di celebrare, di ricordare la giornata dedicata ai defunti. Sì, le persone di buon senso che ancora hanno un'interrotta tradizione familiare e hanno ereditato tutti i rituali, tutti i riti di elaborazione, tutte le forme di pietà diffusa che vengono dal passato, ancora faranno la fila verso il cimitero di prima porta a Roma, altri cimiteri monumentali delle altre città. Ma la maggior parte dei cimiteri sono delle terrificanti rappresentazioni di edilizia popolare periferica, sono dei grandi centri di smistamento di materiale umano in via di decomposizione. Non vedo altro che gatti randagi circolare per i nuovi modernissimi cimiteri. Dov'è questo desiderio, questa voglia di commemorare i defunti? Diciamo che la festa di Halloween non è arrivata qui, è tornata a casa, perché è una festa che parte da tempi antichissimi, veniva celebrata dai romani, non in modo ovviamente parlando di streghe e di cose, ma parlando di spiriti, di mondo dei morti, eccetera. E adesso, per effetto della televisione, dei film americani, è ritornata in Italia. Esistono regioni italiane dove da secoli la festa dei morti viene celebrata. Se voi andate a Perugia, se voi andate in Sicilia, la festa dei morti c'è da centinaia di anni ed è Halloween. Sì, è vero, questo era Luigi Cozzi, scusate, che gestisce un negozio a Roma, il negozio Dario Argento, che è la mecca in questi giorni delle persone che vanno a comprare la loro scorta di oggetti per Halloween. Io stesso ho fatto il pieno, quest'anno vanno molto le budella sanguinolente, ne ho preso una secchiata, un bel braccio mozzato, insomma ho tutto, perché i miei ragazzi amano Halloween, io mi diverto molto in questo giorno. Certo è che sì, forse dipende proprio come ha detto Cozzi, io venendo da Perugia, il giorno dei morti è il giorno della fiera, il giorno più bello dell'anno, lo aspettavamo, anche perché si vendevano le fave dei morti, non vi preoccupate, erano semplicemente dei dolcetti fatti con pasta di mandorle. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno, allora buongiorno a tutti, visto che quello che normalmente dico io, che Halloween c'è sempre stato, che si festeggia in Sicilia, eccetera, l'hanno già detto altri, posso parlare di religione? Se vuoi, allora, ricordo Silvana De Mari, scrittrice di genere fantasy, saggista e psicoterapeuta. Sì, sì, sì. Grazie. Oggi quindi ricordiamo i martiri cristiani, quelli con gli occhi strappati, con le mammelle tagliate, ma io queste robe non devo mica andarle a vedere nelle chiese, perché c'ho le foto sui miei computer. Io sul mio computer ho le foto di un uomo a cui è stata strappata la faccia da vivo, io ho le foto di bambini che sono stati strappati gli occhi, io ho le foto di ammassi di cadaveri carbonizzati tirati fuori dalle chiese in Nigeria, e questa gente si sta rivolgendo a me perché non trova nessun altro, perché vescovi e cardinali spiegano quanto è cattivo Halloween e quanto cattivo Harry Potter. Volete compiangere i martiri cristiani, signori? Ne abbiamo 100.000 l'anno, non è una battuta. Sono 100.000 tutti gli anni, la categoria più massacrata del mondo. Questo è uno dei segreti meglio conservati. I cristiani uccisi per la loro fede. E si rivolgono a me, che sono un laico libero pensatore, perché non ho trovato nessun altro che si occupi di loro. Io ho sul mio computer una lettera che mi arriva da gente disperata in Siria, i loro bambini stanno morendo di fame e le loro ragazzine sono state stuprate. E questi danno la caccia alle zucche di Halloween. Quindi, torniamo a noi. Halloween che cosa festeggiava? I defunti, l'abbiamo già detto, anche perché il cristianesimo è una religione aliena all'Europa, è nata in Asia. Noi avevamo i celtici a nord e i romani a sud. Dai celtici abbiamo il capodanno celtico, Halloween, e dai romani il capodanno romano, Natale. E fin qui è tutto abbastanza chiaro. Sono i miei morti, ma sono soprattutto le streghe. È la maniera Halloween con cui il mondo contadino finalmente rende omaggio alle proprie donne trascinate sui roghi. Quindi parliamo delle streghe. È la festa diciamo di rivalutazione e di compensazione delle streghe bruciate. Per una volta l'anno si fa la festa e si, ricordano che queste donne in realtà sono state passate a fil di spada, a fil di rogo, e forse vale la pena festeggiare una volta l'anno. Quindi c'è una sorta di ricordo lontano di antiche repressioni, per cui dice: è meglio non parlare di Halloween. Guarda, io un anno ho portato i miei figli alla cripta dei Cappuccini, quella all'inizio di via Veneto, è bellissima, era piena di scheletri, di teschi. I miei bambini erano venuti, allora erano piccoli, anche loro vestiti da scheletri, da teschi. Beh, i custodi gli hanno sputato addosso, l'hanno mandati via, come se profanassero un luogo in cui c'erano i frati, che in questa sorta di bricolage macabro hanno fatto lampadari, seggiolini, lettini, tavolini, sale da tè, fatte con i teschi, con le ossa, con le tibie, con le costole. Sono divertiti così, è un bel gioco. Ma quindi c'è una tradizione, diciamo, di giocosa attività ludica attorno al profondo memento mori che campeggia nelle occhiaie vuote di un teschio in tutti i luoghi in cui si medita, si pensa, si ora et labora. E tanto più siamo spaventati della morte, tanto più siamo sguaiati. Quindi tutte le persone che sono un po' sguaiatine con la morte, sia la cripta dei Cappuccini, quella di Palermo, non so se l'avete mai vista. Sì, c'è anche una bambina mummificata che sembra viva. La bambina mummificata, sì, si chiama Rosaria Lombardo, di anni 2, sua madre non è riuscita ad adorare il lutto, l'ha trasformata in una bambola e noi ce la ricorderemo. In Piemonte hanno trovato una vecchia mummificata da una decina d'anni, era una santona, ancora stanno pensando di capire come mai la tenessero su un seggiolone chiusa in casa, con la mano come se volesse benedire, un bel mistero. Certo, per la festa di Halloween, onestamente, ogni tanto è un po' sguaiata, perché noi... Sul giornale di oggi, ridono al di là del vetro, ma prendete la stampa di oggi, è una storia interessantissima. Questa santona che era scomparsa, l'hanno trovata dopo tanti anni, perché l'unica custode è morta, era mummificata, nessuno capisce che l'abbia fatto. Seduta su un trono, probabilmente hanno fatto una sorta di altarino. È tutto da scoprire, ma è molto interessante che esistano fenomeni del genere sotterranei rispetto a una forma esteriore e ufficiale di tenere rapporti fra il mondo sensibile e il mondo impalpabile. Gilda, come la pensa? Io solo questo. Dunque, mia figlia ha 25 anni, circa 13 anni fa, quando la preparavano per la cresima, in parrocchia le catechiste hanno organizzato la festa di Halloween con tutti i futuri cresimandi, e lei si è vestita da diavoletto, quindi al contrario di quello che pensano tante autorità religiose, mi è sembrata una cosa simpatica. E non è successo niente, non è si è aperto il cielo, è uscito un fulmine, l'ha fulminata, no? No. Cioè, questa è una prova che Halloween non fa male alla salute. Sirio? Sì, buongiorno Nicoletti, grazie di avermi chiamato. Ma è il suo nome d'arte, Sirio, o il suo vero nome? No, è il mio vero nome. Ah. Anzi, hanno dovuto chiamarmi Sirio Alessandro, perché quando mi hanno battezzato, non essendo un nome cristiano, non potevo essere battezzato. È un nome da cartomante, c'è un cartomante, una cartomante si chiama Sirio. Beh. No, è mio padre, che è un appassionato di astrofisica e probabilmente... E quindi è uno scienziato, non è un magheggiatore. No, io invece volevo un attimino riagganciarmi al discorso che ha fatto la precedente... Silvana De Mari. Ecco, perché io volevo parlare di Samhain, che è un'antica festa celtica, che guarda caso appunto era il capodanno celtico, la fine dei raccolti, quindi la fine dell'abbondanza e l'inizio dei riposi dei contadini, dei riposi dei campi. E a lei le piace pensare di commemorare questa sorta di ricorrenza? Ma visto che noi qui in Italia, prima delle legioni di Claudio, eravamo praticamente di etnia celtica, di origine bretone, della Normandia, eccetera. Quindi ritorna alle sue origini. Io stasera con gli amici, come tutti gli anni, faremo il Gran Falò, avremo il kilt tipo scozzese e berremo fiume. Ma siete leghisti, queste cose qua? Perché questa non è... Ma no, la politica non c'entra, questo è un ricettacolo culturale dei nostri territori, è andata persa. Ma il kilt scozzese l'hanno inventato nell'Ottocento, è una cosa che non è mai esistita. Sì, lo so. Però sta bene, è bello lo stesso. Vabbè, buon divertimento, io sono molto laico in questo, mi piace vedere che la gente si diverta e si diverte come meglio crede, non mette a repentaglio nessuna mia cosmologia al fatto che la gente si veste alla scozzese, ma solo vestire da quello che vuole. Melog, cronache meridiane. Usate la testa e non la zucca. Halloween È il capodanno di Satana, dice Rocco da Napoli come via SMS. E poi dei santi ci interessa l'eroicità della loro vita, come hanno testimoniato la fede. Virtù eroiche dei santi, nessuno le mette in dubbio, ma potremmo divertirci vestendoci da mostro, da zombie oggi. Cosa facciamo di male? Cosa mettiamo in dubbio? È così facile, è così fragile, così vacillante la vostra fede che basta un bambino che si veste da Frankenstein, che già pensate che possa richiamare l'anticristo? Gaetano, buongiorno. Grazie Nicoletti, eccomi qua. Allora, io chiamo da Riccione, qui si è scatenato il putiferio. Vestiamo i nostri bambini da angioletti contro questa festa satanica, demoniaca. Ma poveri bambini, appesi anche qualche trespolo sollevato per farli volare, come si faceva nelle vecchie processioni. Come nel Corpus Domini, bravissimo. Dicevo, lì appendono i bambini anche di 2 anni, 3 anni, poi li devono anche ricoverare, poverini, nelle gabbie e nel baldacchino. Mia figlia ha 4 anni. Fino al secolo fa, pensi che gli tagliavano le palle per farli cantare con la voce da donna nelle chiese? Assolutamente, sì, così cantavano meglio. Mia figlia ha 4 anni e mezzo, si veste con tutti gli altri bambini dell'asilo, si divertono. Io, che ho 48 anni, ormai 49, mi metto i denti da Dracula, questa ride, dice, oh babbo, fammi Dracula. È una commercialata, però ci potrebbero sì, è una cosa orrenda, perché pensi perché che i negozi dei cinesi hanno le zucche di plastica già da 2 settimane, però boh, a me fa ridere, fa simpatia. Io tutti gli anni scavo 2 o 3 zucche perché poi con il ripieno ci faccio i tortelli. Quindi alla fine trovo un zucchino anch'io. Però voglio dire, ma abbiamo l'albero di Natale in piazza San Pietro, quello è una cosa pagana, allora perché non lo smettono? No, a me fa ridere che diventano tutti esperti di storia delle religioni. Ho una sfilza di persone che vogliono parlare per dimostrare quanto ci sia una radice pagana anche del cristianesimo, ma è chiaro, ogni religione si sovrappone alla religione precedente, i simboli assoluti, le coordinate assolute che l'uomo ha sempre avuto per orientarsi fra mondo sensibile e mondo insensibile, e mondo sovrasensibile, sono sempre quelle. Maria Rita, dica la sua, Halloween non è una festa religiosa. No, Halloween non è assolutamente una festa religiosa, però io rispetto l'opinione di tutti, però che la signora che cresima i bambini faccia la festa in parrocchia, cioè nella Bibbia è scritto chiaramente che c'è una distinzione fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, non può esserci nessuna comunione fra questi due mondi, c'è una separazione distinta. Ma come, quindi, si fanno le messe funebri? Scusa, è la mia ignoranza. Ma allora, le messe funebri che si fanno nelle chiese cattoliche normalmente... Ma lei cos'è? Non è cattolica? Cos'è lei? No, io sono evangelica. Ah, ho capito, vabbè, non mi venga però a fare la predica, signora, oggi vogliamo divertirci. No. Sì, ho capito, però... ma lei legge la sua Bibbia, oggi la divertirebbe vestirsi la zucca oggi e andare a ballare? No, non mi divertirei. E cos'è che la diverte? C'è qualcosa che cosa la diverte nella vita? Esiste qualcosa che la diverta nella vita? Ah, sicuramente. Me ne dica una. Tutta una gioia. Ma cosa? Intanto, una. Camminare in mezzo alla natura, primo. Stare con i fratelli e le sorelle, secondo. Poi? Lodare Dio. Ma pensi che botta di vita. Vabbè, guardi, se questo è il suo divertimento, io lo rispetto. Impazzisca di gioia con i fratelli e le sorelle, lodando Dio, ma va benissimo. Stefano. Pronto? Sì. No, volevo dire, ma già prende detto anche un precedente ascoltatore, che in effetti queste qui sono tutte cose di origine pagane, origini celtiche. E allora cosa fanno male alla salute? Cosa succede? No, che molti preti prevedevano già l'albero di Natale, per esempio. Ma i preti fanno il loro mestiere, difendono la loro parrocchietta, giusto, ma lo trovo lecito. No, appunto, in effetti, già è così compromessa dall'attenzione altrui, dicono facciamo le nostre feste, la festa dei santi e la festa dei morti, come sempre è stato nella tradizione. Già sono cose che sono state introdotte nella fine dell'inizio del Novecento. Sì, ma lo sai qual è il problema? Scusi Stefano, non entriamo nella storia. Queste cose non fanno divertire. Se oggi uno vuole avere un'occasione per divertirsi, per fare festa, per ubriacarsi, per prendersi 2 amiche e andarci a spasso, per fare qualcosa di strano, deve fare Halloween, non è che può fare i morti e i santi. Silvana De Mari. Tutte le volte che dei bambini ridono, Dio ride, e adesso vado a fare i tortelli di zucca perché le ho svuotate. Marco, che non è d'accordo con me. Marco. No, buongiorno a voi. No, non sono tanto d'accordo, nel senso che lei ha detto adesso che i preti devono difendere la loro parrocchietta. È la loro, è giusto. No, trovo che sia giusto, però quello che capisco poco è questa acredine, no? Lei prima ha detto tagliavano le palle ai bambini per farli cantare, insomma. È storico. Loro difendono la loro ed è giusto così. Questo non vuol dire che non debbano dire che Halloween non va bene, è il loro punto di vista, perché no? Ma io infatti mica che ho detto che il loro punto di vista deve essere no, impedito ad esprimersi. La signora ha detto io sono felice lodando Dio, lei ha detto che botta di vita, cioè, cioè il mio punto di vista è quello, lodare Dio è un'azione che a qualcuno dà felicità senz'altro, ad altri lo vedono come un atto che di cui ne possono fare benissimo a meno, darà rispetto, non dico sia questo il mio punto di vista, sono felice che la signora trovi felicità in quello, a me piace vedere il viso sorridente, la gente illuminata dalla grazia, anzi è una grande invidia in questo, ma avendo ancora una natura umana che prevale su di me, a me piacerebbe oggi pomeriggio avere 3-4 amiche simpatiche, prendermi una bella bottiglia di vino, vestirci da fantasma e andare in giro a infastidire la gente, questo lo troverei qualcosa di molto divertente. Stasera i miei bambini andranno a chiedere i dolcetti e domani li porto a messa, io trovo che le due cose possano coesistere. Assolutamente, certo. Quindi perché no? Questo magari è il punto su cui vorrei discutere, perché una cosa esclude l'altra. È una festa recente, è vero, quando ero bambino nemmeno Halloween era qualcosa che si leggeva nei fumetti di Walt Disney, lo facevano qui qua la festa di Halloween e chiedevamo ai genitori, mamma che è questa festa? E loro nemmeno sapevano risponderci cosa fosse. I miei figli oggi sono cresciuti divertendosi molto più per il giorno di Halloween che per il giorno di Carnevale, perché sul Carnevale non c'è, si è interrotta la tradizione, noi ci siamo stufati a un certo punto, sarà per gli anni 60, 70, 80, siamo stufati di vestirci da Pulcinella e l'Arlecchino, si sono svuotati del loro significato simbolico e quindi è molto più semplice infilargli una zucca e vestirli da zombie, perché gli zombie sono i soggetti ai loro telefilm. Silvana De Mari. Io ricordo l'assoluta felicità di mio figlio quando insieme a altri tre, uno vestito da fantasma, uno da strega e il terzo da scheletro, andavano a chiedere i dolcini ai vicini di casa che li riconoscevano, li avevano preparati per loro. Era qualcosa di così tenero, dove nasceva una cosa che negli Stati Uniti, quelli per il profondo Stati Uniti, esiste ancora, e che noi abbiamo perso, il banalissimo buon vicinato. Mando il mio bambino per la strada, essendo sicura che non gli succederà niente, perché i vicini hanno preparato dei dolcetti per lui, e questo vuol dire amarsi l'uno con l'altro, ed è una festa dove si ride, dove tutto sommato ci si vuole bene, perché se do un dolcino a un bambino gli sto manifestando in qualche maniera il mio affetto per lui e per la vita, quindi possiamo tenercelo. In più, dentro Halloween noi abbiamo messo tutti i nostri terrori, noi siamo il secolo del genocidio, viviamo costantemente sull'orlo della catastrofe, che sia la catastrofe nucleare, che sia il cambiamento del clima, abbiamo una paura boia, l'abbiamo esorcizzata nell'unica maniera con cui si esorcizzano le paure, ridendo. Noi abbiamo bisogno di questa festa buffa e anche un po' sguaiata, che è il nostro immaginario collettivo, un immaginario collettivo che è orizzontale, non verticale. Quindi orizzontale, e io ce l'ho come gli Stati Uniti, come il Giappone, addirittura come la Cina, non verticale come mio nonno e mio bisnonno, esattamente come io mi vesto, come si vestono le persone della mia età del Giappone e della Cina, non come mio nonno e mio bisnonno. Adesso, sentiamo Leonardo, aspetta Silvana, Leonardo la pensa, Leonardo la pensa come te. Leonardo, salve, anche lei, salve, buongiorno, è orizzontale, buongiorno. Anche lei, nelle sue, io volevo solo dire, manifestazioni. Pronto? Sì, no, sapesse anche lei orizzontale nel suo manifestare la gioia di questo giorno. Come dice Silvana? Per me è veramente una cosa assurda tutta questa polemica. Io stamattina ho visto mia figlia vestita di 4 anni, vestita dai suoi compagni da fantasmino, e quello che c'è di positivo è che loro così, diciamo, esorcizzavano le loro paure. Tutti i giorni sentono favole di mostri, di streghe, vestendosi da fantasma, vestendosi da strega, le esorcizzano. La cosa tremenda è che loro a scuola materna a 4 anni abbiano un insegnante di religione nominata dal vescovo, questo lo so, è vabbè, adesso non facciamo una bieca trasmissione contro la regione ufficiale, non è questo, divertitevi, fate quello che volete, basta che siate contenti, a domani.